carissima metà, è molto tempo che vorrei risposte in cambio, ma non so più chiedere. Ho sempre dato tanto e poi sorriso a tutti guai, cercando la mia anima, chiedevo come mai. Non ho saputo battermi, schierarmi o scegliere. Tu sei la mia coscienza e rendo conto solo a te. Facendo di tutta rovinarti la vita, però dimmi il tuo prezzo, ti dirò quanto offro, se ne vale la pena o no. Quanta pioggia hai visto tu, dicevi sempre che tutti contro con la tua fragilità.